Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi cominciamo con un romanzo che ci riporta a una pagina drammatica, controversa della storia d'Italia, cioè la separazione dell'Istria che dopo la guerra, la seconda guerra mondiale, venne brutalmente annessa alla Jugoslavia. Troviamo questa pagina che fa da sfondo al romanzo di Stefano Zecchi, Quando ci batteva forte il cuore, pubblicato da Mondadori, 216 pagine, 18,50 euro. Le vicende narrate da Zecchi attraversano appunto questo microcosmo rappresentato da una piccola famiglia di Pola, fatta di padre, madre e un figlio bambino, una famiglia italiana, italianissima, nella quale soprattutto la mamma non vuole assolutamente rassegnarsi a perdere la propria identità di italiana a nessun costo e non vuole soprattutto accettare il destino di persecuzione prima e di soggezione dopo che si prefigura per gli italiani, soprattutto per gli italiani non comunisti. In questo clima di grande tensione nasce e matura il rapporto tra padre e figlio. Il figlio conosce il padre che ha già 3-4 anni perché ritorna il padre dalla guerra, dalla prigionia e vede questo bambino praticamente per la prima volta, lo ha lasciato in fasce. E quindi il romanzo si svolge su un duplice registro, quello del legame che si scioglie tra Pola e l'Italia e quello del legame che si rafforza tra il padre e il figlio, mentre intanto la famiglia va in crisi, anche il rapporto tra i coniugi assume, soprattutto agli occhi del bambino, un aspetto molto conflittuale. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno a Stefano Zecchi. Buongiorno. Stefano Zecchi, il suo romanzo affronta una pagina storica, una pagina della storia d'Italia poco battuta, non soltanto dalla narrativa ma anche dai libri di storia. Ecco, in questo suo libro prevale questo aspetto, l'aspetto di riscoprire un periodo storico così poco studiato, così poco affrontato, o c'è anche una componente romanzesca importante? Sì, c'è una componente romanzesca che fa da filo conduttore, cioè la storia di questa famiglia di Pola, in particolare il rapporto tra il papà e il bimbo, che alla fine diventa l'occasione per guardare attraverso gli occhi prima di un bambino, poi di questo bambino cresciuto, quella parte di una storia d'Italia che effettivamente è dimenticata o volutamente omessa dai libri di storia, perché è una pagina che apre molti problemi per la nostra storia repubblicana, non per la storia precedente, quella del fascismo. E quindi sì, il mio desiderio era provare a raccontare attraverso una piccola storia i problemi di una grande pagina della storia nazionale così rimossa, così poco conosciuta, proprio perché i libri di storia non la riportano. Ecco, perché c'è questa omissione, secondo lei, c'è stata? Capisco la motivazione politica, ideologica, ma adesso che le ideologie, si dice, sono finite, non ci potrebbe essere un pochino più di onestà? Beh, in parte questa onestà piano piano si sta facendo strada. Quella tragica vicenda delle popolazioni dell'Oriente Adriatico, della sponda orientale dell'Adriatico, è appoggiata su tre questioni. La prima ormai è entrata, diciamo, nel nostro vocabolario storico, cioè le foibe. Sappiamo oggi davvero cosa sono e non ci rimettiamo a una piccola osservazione di carattere geografico, però quella vicenda si appoggia anche a due altri aspetti. Uno si chiama esodo e l'altro tema è la figura del profugo. Ora, questi due aspetti sono molto problematici per la nostra storia recente, perché l'esodo ha significato che oltre 350.000 persone se ne sono andate solo perché volevano rimanere italiane, e questa è una cosa che evidentemente sconcerta una cultura poco nazionalista o comunque poco legata ai valori della nostra terra. E l'altra questione, quella del profugo, significa rievocare una situazione altrettanto drammatica che quella di esuli due volte in patria, prima perché scappano, devono fuggire dalla loro terra ceduta agli jugoslavi e poi perché non accolti in Italia, perché considerati appunto dal governo repubblicano, dalla cultura repubblicana democratica, dalla gente, perché considerati dei ladri, fascisti, torturatori che scappavano da quel paradiso terrestre che doveva essere il comunismo di Tito. E quindi, ma soprattutto l'ultima parte che io racconto nel mio romanzo, sono cose che io ho visto quando ero bambino, la scuola che descrivo era la mia scuola, l'arrivo di questi profughi in Riva Schiavoni ricevuti a sassate da manifestanti con le bandiere rosse. Si ricorda che ci fu uno sciopero a Bologna quando passò il treno per portare questi esuli ad Ancona, e la volontà del governo italiano di non tenerli uniti perché si temeva che uniti potessero creare dei problemi di ordine pubblico. Ecco. Poi c'è stato il trattato di Osimo, quello degli anni 70, che praticamente ha non voluto riconoscere alcuna delle ragioni degli esuli e quindi della realtà, diciamo pure culturale, di quelle terre. Ecco, c'è stata una serie di contraddizioni, di omissioni, di compromissioni democristiane e comuniste, che forse anche riscoprirle oggi fino in fondo non è tanto semplice. A un certo punto questo destino lo scopre il bambino Sergio, che dice al papà, chiede: saremo profughi, vero papà? Non mi rispose, lei scrive. Sì, ho cercato attraverso la sensibilità di un bambino di spiegare cosa potesse essere questa realtà così terribile di chi appunto viveva bene, discretamente nella sua città e deve lasciare tutto, e questo dover lasciare tutto, a un certo punto c'è la necessità di lasciare anche la speranza di poter ricostruire una storia, un destino più favorevole, più vicino alle esigenze di una famiglia che in fondo aveva soltanto voluto rimanere in Italia. La famiglia avrà un destino tragico perché c'è questa sorta di divisione tra il padre più più tranquillo all'inizio, che tenta un accomodamento, e la madre invece una accesa difensora dei diritti degli italiani. Ma lì ho voluto provare a rappresentare, se si vuole c'è anche una seconda lettura, innanzitutto una realtà storica anche molto dimenticata oppure oscura, cioè la possibile presenza di una resistenza armata nelle terre istriane, dalmate, fiumane, di cui non se ne parla, non se ne vuole parlare, e anche la figura di Maria Pasquinelli è una figura che, come si sa, uccise il capo del presidio inglese di Pola, il colonnello, mi pare, De Winton, e non si sa nulla di quello che poteva essere un'eventuale resistenza e non accettazione remissiva della popolazione del posto. E la figura della madre per me rappresentava volevo che rappresentasse questa immagine di forza, di consapevolezza della propria identità a fronte del padre reduce dalla guerra, che sa cosa significa combattere, sa cosa significa uccidere e venire uccisi, e che quindi innanzitutto vuol salvare la famiglia. Lui spesso ricorda alla moglie che la famiglia viene prima di qualunque pretesa della sua iniziativa, presa di posizione, insomma, politica. È un po' una seconda lettura, potrebbe essere oggi il senso della famiglia, qual è il senso dell'unità della famiglia di fronte a un mondo del lavoro che divide. Io ho visto che è stato letto anche in questa chiave, e così in fondo ho voluto anche in qualche modo riscattare l'immagine e dell'importanza di una unità della famiglia nella formazione, nell'educazione dei figli, e soprattutto riscattare anche l'importanza della figura del padre, che oggi è una presenza tutto sommato quasi inconsistente all'interno di una famiglia. Un po' anche per colpa nostra, forse. Un po' per colpa nostra, perché Perché ormai le donne hanno una tale forza, immagine nella vita pubblica, che anche in assoluta buona fede finiscono per surrogare le funzioni del padre, il quale poi in genere ha due atteggiamenti: o quello di darsi la gambe con un alibi che accoglie tutto sommato con favore, oppure quello di non sapere che pesci prendere, e spesso finisce per fare il mammo e perde in fondo quella autorevolezza che dovrebbe avere un padre. In fondo il padre è decisivo nell'educazione sentimentale di un bambino, di una bambina, cioè far capire che cos'è un desiderio, una speranza, cos'è il coraggio, la lealtà. La mamma tende più alla protezione, alla chiusura, il padre è appunto quello che deve regolare i sentimenti di un bambino, di una bambina, nella relazione con il mondo, con la realtà. Una chiave di lettura che rende ancora più interessante questo libro. Grazie a Stefano Zecchi, buona domenica. Grazie, arrivederci. Il libro di Zecchi dunque rappresenta un osservatorio insolito sulla storia, e su questo aspetto insiste un libro diverso che non è un romanzo ed è l'ultimo libro di Sergio Romano, Le altre facce della storia, pubblicato da Rizzoli, 338 pagine, 20 euro. Qui troviamo dei brevi ritratti tratti dalla corrispondenza dell'autore con i lettori del Corriere della Sera, nella quale ci sono tanti personaggi non sempre notissimi che hanno conquistato però tutti un posto nella storia e a un certo punto hanno impresso una certa svolta al corso della storia. Non ci sono soltanto condottieri e politici, troviamo anche filosofi, benefattori, diplomatici e a un certo punto anche un personaggio apocrifo, un personaggio fittizio, quello che abbiamo visto protagonista del film The Reader a voce alta. Sono ritratti tutti di poche pagine, questi di Sergio Romano, che aprono tuttavia degli squarci insospettabili e ignoti su pagine fondamentali della storia e non sempre, e non soltanto di quella più recente. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, vi propongo adesso un altro romanzo nel quale la storia svolge un ruolo importante. Questo è un romanzo francese che si svolge all'ombra di una pagina importante, anch'essa drammatica, della storia della Francia, e cioè il ritiro, l'abbandono dell'Algeria. Il libro è Il Club degli Incorreggibili Ottimisti, e di Jean-Michel Guenessia, che è un avvocato francese appassionato di scrittura che ha dedicato molti anni a questo libro, anzi a un certo punto ha proprio abbandonato la professione per finire di scriverlo. E ha fatto bene, perché questo libro ha venduto in Francia oltre 200.000 copie, e adesso ce lo propone in Italia Salani, un romanzo di 702 pagine, 18,60 euro, tradotto da Francesco Bruno. Quindi, dicevo, siamo nella Francia della definitiva decolonizzazione e la storia è quella della crescita di un ragazzo la cui famiglia sarà direttamente, drammaticamente coinvolta attraverso le vicende del fratello maggiore nel convulso periodo della guerra d'Algeria. Ma si parla qui naturalmente della formazione, soprattutto di questo ragazzo, una formazione che viene più che nel prestigioso liceo parigino frequentato, nel retrobottega di un bistrò, dove si raduna un gruppo di fuoriusciti dai paesi comunisti, alcuni dei quali continuano per la verità a essere convintamente comunisti, quindi un'altra pagina di storia che si salda con quella di cui dicevo, e cioè la fuga dai regimi totalitari dell'Est. Tra queste figure, alcune di queste indimenticabili, capita anche Jean-Paul Sartre, che viene per esempio così presentato in un momento particolarmente drammatico e significativo della cultura francese. Quando sono arrivato a Balto, ho percepito un'atmosfera insolita. I biliardini erano liberi e i flipper anche. Tutti erano appoggiati con i gomiti al bancone e parlavano sottovoce. Nel club nessuno giocava a scacchi. Erano lì, seduti fianco a fianco, silenziosi e attenti a non fare alcun rumore. Se lì di solito regnava il silenzio, quello era forzato. Sartre era seduto da solo a un tavolo, trasognato. Una sigaretta all'angolo della bocca si consumava senza che lui l'aspirasse. Un tratto di cenere penzolava nel vuoto. Davanti a lui due bicchieri vuoti e un terzo che lui si è scolato fino all'ultima goccia. Jackie è entrato col vassoio carico di consumazioni, che ha distribuito a ogni tavolo con una delicatezza insolita. Quando è passato vicino a Sartre, questi ha teso il bicchiere vuoto. Jackie si è immobilizzato, ha fissato l'altro con aria afflitta ed è uscito dal club. È tornato qualche istante dopo con una bottiglia di Black and White che ha posato sul tavolo. Sartre ha alzato la testa per ringraziarlo. Si è messo a bere dal bicchiere a piccoli sorsi. Poi si è bloccato ed è rimasto immobile, gli occhi persi, le spalle basse, l'aria stanca. La sua mano destra posata sulla gamba reggeva il bicchiere vuoto. Quelli che entravano nel club si fondevano nel silenzio circostante. Fissavano Sartre con commiserazione. Lui ha preso la stilografica e ha buttato giù qualcosa con mano nervosa. Mi sono accostato a Igor Markis, con il quale avevo simpatizzato durante le vacanze. Lui mi ha rivolto un sorriso complice e mi ha posato una mano sulla spalla come per confortarmi. Gli ho bisbigliato all'orecchio: «C'è stato qualche lutto nella sua famiglia?» Igor è parso sorpreso della mia domanda e mi ha risposto con voce impercettibile: «È morto Camus. Albert Camus. In macchina. Morto sul colpo. Perdita terribile. All'aria sconvolta. Dovevano essere molto intimi. Dopo la guerra erano amici. Quando è uscito l'uomo in rivolta, Sartre ha demolito Camus. È stato sprezzante e offensivo. Hanno fatto baruffa». E proprio col funerale di Sartre si apre questo libro, con una pagina potente che mette a paragone l'imponenza del ricordo del grande filosofo e l'assoluta inconsistenza ideologica del defunto. In queste righe l'autore denuncia come un autore che non aveva azzeccata uno dal punto di vista politico-ideologico potesse suscitare una così grande emozione. Nel club degli incorreggibili ottimisti ci sono figure indimenticabili di esuli, di tassisti russi che vendono finti pugnali di Rasputin, di attori falliti e soprattutto di grandi scacchisti che faranno diventare adulto il protagonista Michel Marigny, di famiglia in parte italiana, il cui nonno a un certo punto deciderà di abbandonare la Francia per tornare in Italia a Fontanellato. Nel romanzo di Genessia troviamo una relazione complessa tra il protagonista e una ragazza, Cécile. Un'altra complessa storia sentimentale è quella che fa da sfondo a un altro romanzo breve, anch'esso di grande successo in Francia, Gli amanti di Jean-Marc Parisi, pubblicato da Barbès, 112 pagine, 12 euro, e tradotto da Tommaso Guerrieri. Qui abbiamo l'amore tra due ventenni che si trasforma, quando i due ragazzi crescono e diventano quasi trentenni, in un rapporto diverso, di grande intimità intellettuale e psicologica, confermato da queste righe che vi propongo. Era la mia unica complice, quella a cui tornavo sempre per discutere di arte e di intimità, ma anche di quel periodo che non finiva di sprofondare. I tempi si erano maledettamente complicati da quei giorni quasi innocenti in cui mi prendevo per Philip Marlowe nei corridoi della Sorbonne. Sembrava che gli anni Ottanta, allo stremo, dovessero agonizzare fino agli anni 2000. Stessa commedia riconducibile agli stessi segni esteriori di ricchezza, ma più volgare, più esagerata, perché arraffata da gente sempre più ricca e sempre meno numerosa. Apoteosi della confusione sessuale, il modello del maschio contemporaneo che si pavoneggiava al potere e faceva smorfie come una demi-mondaine. Progresso esponenziale dell'incuria. La destra polverizzava i record di svilimento stabiliti dalla finta sinistra 20 anni prima. In quel momento, l'agonia e lo scandalo si tempravano a vicenda. La strada si riempiva di dita medie alzate, aspettando tutto quel piccolo mondo al varco. Quanto ai giornalisti, nella peggiore delle ipotesi, degli spioni. Nella migliore, dei polemisti finanziati dalla pubblicità. Ava mi ascoltava e questo le evitava di comprare i giornali. Restiamo in Francia, anche dalle parti dei bistrot, con un altro romanzo pubblicato da Barbès. Questo, l'autore di quest'ultimo è un autore maledetto, Jean-Pierre Martinet, morto a 49 anni dopo essere sprofondato nell'alcol. Questo è il suo ultimo libro, il primo a essere tradotto in italiano. Si intitola La notte in cui ebbero paura, 116 pagine, 12 ore, ed è tradotto da Camilla Diez e Leila Pyle. E qui abbiamo il profilo di un attore in disarmo, ottimismo ce n'è poco in queste pagine, ma troviamo uno squarcio di grande umanità, come dimostrano per esempio queste righe che ci danno il ritratto di un personaggio assai poco politicamente corretto, qui alle prese con un importuno che gli rimprovera di consumare le uova sode esposte nei bistrot parigini. La prego di scusarmi, signore, ma insomma Perché rompe le uova se non ha voglia di mangiarle? È scioccante. Pensi all'Etiopia, signore. Dovrebbe vergognarsi. Sempre lo stesso. C'era un mucchio di gente che si immischiava di ciò che non la riguardava. Rompiscatole di professione, maniaci dei diritti umani, assetati d'amore universale, tossici della grande fratellanza e propinatori di lezioni per di più. Instancabili non appena gli si dava l'occasione di esibire la loro bella anima, la loro bella piccola anima palpitante e generosa. Al giorno d'oggi gli succedeva di travestirsi da tassista in pensione o da fanatico delle scommesse. Di chi fidarsi? Niente somigliava più a niente. Maman ebbe voglia di prendere il vecchietto per il bavero della giacca e di sbatterlo per strada, ma si limitò a rompere un altro uovo dentro al pugno stretto. Si tagliò con un pezzo di guscio, ma in modo così leggero che ne provò quasi piacere. «Le uova mi fanno orrore, signore. Ecco tutto. Un orrore profondo, le uova. E me ne strafrego dell'Etiopia». Cambiamo genere con uno degli intellettuali francesi più noti e autorevoli, Alain Besançon, che ha scritto L'immagine proibita, una storia intellettuale dell'iconoclastia, pubblicato da Marietti, 440 pagine, 40 euro, curato da Marco Rizzi e tradotto da Silvia Moroni. Il tema è tutt'altro che peregrino, l'iconoclastia vuol dire la guerra alle immagini. Se avesse vinto questa corrente di pensiero, tutta l'arte e il pensiero occidentale, in fondo, avrebbero avuto un corso molto diverso da quello che hanno avuto. Perciò la riflessione di Besançon si intreccia profondamente con riflessioni di carattere filosofico, artistico e religioso, e questa riflessione attraversa un po' tutta la storia, perché poi ritornerà d'attualità con Calvino e in fondo anche oggi con l'astrattismo, che sembra in qualche modo seguire i travagli della nuova teologia, scrive l'autore. Besançon comunque conclude di ritenere che la morte dell'immagine non è un destino irrevocabile. Come dice nella sua presentazione Marco Rizzi, questo tema è centrale non soltanto per il futuro della religione, ma anche per il futuro della stessa democrazia, perché osserva che l'astrattismo e l'utopia rivoluzionaria vanno in parallelo nel voler imporre una realtà che hanno in mente loro, mentre appunto la Chiesa Cattolica e la democrazia occidentale, conclude, dovrebbero essere capaci di costituirsi quali rappresentazioni visibili di un ordine invisibile, cioè il divino e la giustizia. Il confettino. Vi segnalo oggi un libro di Andrea Valente pubblicato da Gallucci, Cervelloni d'Italia, 168 pagine, 12 euro. Troviamo qui un altro catalogo dopo quello di cui abbiamo parlato poco fa di Sergio Romano, di nomi noti e non, che hanno illustrato la storia del nostro paese. Non vi nascondo che ci sono molte scoperte interessanti anche per i genitori che leggeranno il libro con i loro figli. E con questo ringrazio Margherita Aina in redazione, Filippo Aureggi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare tutte le nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.